30 anni fa, le ragazze del sole, sole rosso, tutte quelle canzoni, sole rosso, dentro il mare, se chiudo gli occhi sto male, quella lì la cura. Ah, le conosco già. Tu le hai spiazzate qua? Io tutte le conosco, le canzoni. E tutte una parola grande, mi dico canzoni che magari non conosco. Sì, faccio trappare ancora karaoke, ma pure tu non le conosci tutte. Trappare karaoke, fare cosa, la voglia che ne ho conosciuto canzone. Certo, ci sono riconosci davvero, ha riconosciuto pure niente che sono con un gazzaro di leva, ha giunto tutto. Io mi sa che io. Sì. Io mi sa che anche io, sono andato con le pentole e con queste cose qui, erano anche bravi cantando. Ma tutte è un casino. Guarda, io le canzoni ogni giorno le sento, nuove cose che magari mi piacciono, poi me le ascolto e le imparo. Però non le conosco tutte, tutte ce ne sono canzoni a Puglia. E poi quelle in inglese non le faccio, le faccio solo in italiano. In inglese qualche parola, sì, qualche canzone la dico, però parla tutta l'inglese, no? E questa fatta l'anno. Che è un artista. me ne sono di verba. È bravo, non è, non ci riesce da dire, però io la vedo più come cantante che come artista, quindi ho detto quello che vedevo. Ma appunto, ma ti posso assicurare che ce ne sono meglio di lei. Sì, Maria Carta era meglio di lei. No, a me non piacevano, che va bene le volte da vecchia. Ehi, tipo di canzoni che cantavano. Te la ricordi la canzone in italiano? Qua. Cantano, na na na na, cantano, Deus meu. Sì, sì, la conosco. Vabbè, comunque a me non piacciono, il genere sardo non piace, la canzone sarda, c'è chi l'ha presa, c'è chi no, a me non piace, sinceramente. Quando dice che mi non vai, mi vengo giù. Mamma che a me mi fanno girare le balle. Però anche quello mi ho dovuto subire, cosa vuoi fare? Un po' i canti in re, forse un po'. Alla nonno. A nonno Antonino, un pochettino, ma niente di che. Poi, a me quando li facevano in piazza che c'era la cavalcata me ne scappavo, non mi piaceva. Sì, già io mi sono incattissato, no, voglio aiuto, io me ne do cadenti. No, mi piace, a me mi facevi la maranoia, io ma... saranno anche bravi, magari per chi se ne intende, però io non apprezzo quel tipo di canto. Ah, ma mi fate, e pensa che tu per lavoro ho dovuto farmi due giorni a cartellino, ho dovuto farmi. Oh, che allucinante qua. E ma te ne mangia più caso sassi, sei chi mio? Beh, certo. No, non me l'hanno offerto. Alla guerra la purpuzza è la fascista fatta in su fuoco, me. Panini e giramento di guglione. E invece qua quando vengono lì punti alla festa li invitano al ristorante a mangiare. Ti vado a mangiare bene, infatti i trasmetti hanno ringraziato per come sono stati trattati, eccetera, anche quell'altra cavità, no, quell'altra comica che è venuta lì punti, ci ha fatto crepare delle risate, che fa drive-in, eccetera, eccetera. Poi, forse ha detto che ha mangiato molto bene, che sono stati ospitali, il comitato di vita, capito? E forse il comitato di punti porta sempre dei bravi artisti. Noi abbiamo fatto magnati con i Bertas, con tutti. Cavolo, ho mangiato molto bene anche a Coso, a Semini un giorno. L'ultimo che ho fatto sono a Semini a Torpè. Ma sono idratato per gigioni di tutto quella da mangiare. Ma roba buona vero me. Cazzo, a Semini abbiamo mangiato bene lo stesso. A Semini è la caglialità a Semini, no? Ma abbiamo mangiato da Dio, ti dico, roba buona. Ci sono i posti dove ti invita, ci sono i posti dove ci devi pensare tu a mangiare, uscire. Sì, sono posti dove ti vengono a mangiare un gomitato. Cioè, non c'è proprio, ma roba buona, cazzo. È bello, sono stato molto bene a Semini, ci hanno trattato bene, bene, bene, e poi a Torpè. Cazzo, roba, ma di care mi, bene, no che me. Cazzo, sono stato anche bene alla Erro, sono stato bene, un po' di posti sono fatto io. Ho mangiato molti posti della Sardegna. Ma in Sardegna dove vai, sono tutti ospitali. Non è come in continente. In Sardegna c'è l'ospitalità proprio di casa. Sì. No, è roba buona. A Coso? Cazzo, non mi ricordo adesso. A Urzana Manna, mi pare. Nell'Oritanese lì, cazzo, roba di vitello arrosto. Una reddu era. Quando quelli che gli fanno il polo spiede usi. Fuffi! Vabbè Luca! Chi è? Luca! Io sto in baracchino che sei troppo alto, mi sta spaccando tutto. Sardi, ti ce l'ho a due microfono, ecco. Senti, fissati. Io lo usavo sempre così, non avevo detto mai niente. A 5. Adesso che è a 2, a 1 te lo metto meglio qua. Adesso abbassa il volume. Cazzo, sei entrato in secchirelli, forse per questo. Posso fare, se pompa una coppa mia. E cambialo. Ma mangi un bottino di mammo. Oh, via. Luca, stamattina stavo facendo la linea. Quando io faccio la linea, non guardo lo schermo, perché sto sempre facendo roba. Praticamente faccio colazione, poi come finisce la canzone vado e la metto, no? Quindi non ti ho visto che hai salutato. Dopo io sono tornato indietro per vedere se c'era qualcuno che era entrato. Io ho visto che ci dice, cazzo Luca è entrato a salutare. Non mi so come capizzare. Cosa ci sono con la linea, la striscia, boh? Te l'ho spiegato da cos'è la linea. No. Mi sa che è un po' complicato qualcosa. Però mi sono fatto un nuovo account. Allora, la linea si fa per tenere la tua stanza, perché io ho una stanza privata, oltre la famiglia, ho una stanza mia privata, dove io posso andare a cantare, a provare le canzoni, faccio tutto, poi puoi entrare anche tu a cantare, se vuoi, è come la famiglia, però è la tua stanza privata. Se tu vuoi tenere quella stanza, devi fare la linea ogni giorno. Sono 20 canzoni che devi mandare, anche se non canti, le devi mandare. Poi il sabato e la domenica è doppia, invece che 20 sono 40 canzoni. Se tu prendi dei premi, puoi lanciare quelli e devi fare meno canzoni, perché ogni primo magari c'è da 160, 180, quindi tu fai che ogni canzone 20 punti e fai meno canzoni, capito? Così lanciando i primi li prendi dove escono quelle strisciate, visto? Stanno aprendo il forziere, tu clicchi lì, quando apri il forziere ci clicchi sopra col dito e prendi i primi. Ecco cosa è tutta la randazza. Ah, ecco, ho capito. E possiamo entrare anche Antonio, così canta pure lui. Ma senta. Ma più grande esce il gabbo, io faccio da preparare un pezzino romanzano. E non esce di gabbo, se tu vuoi solo cantare, puoi solo cantare, Antonio. Non è che sei obbligato a fare i compiti. Certo, se tu pretendi di avere una stanza tua, devi fare anche le cose, se no non te la vanno, non te la lasciano. Se tu non carichi la stanza, Luca, mi sono dimenticato di dirti che te la prendono, te la tolgono, capito? Ve ne so stanze in ovvie, dove vuoi andare? In camera a pranzo, camera a resto, dove vuoi andare in ovvie? E ma qui è la stanza di una room, tu, non è una room casa tua. Non sapevo di avere una room. Guarda, sembra difficile Luca, però a furia di starci impara una cosa, impara un'altra, manco di una bizzi, io mi vado in scioltezza, adesso prima mi sembrava tutto così difficile, tutto. Adesso vado tranquillo, capito? Vado in scioltezza. Vabbè, piano piano, non sto insegnando come fare, c'è quel tipo Filippo. Mi si sta spiegando un po'. Tu pensa che all'inizio dovevo cambiare nome per far parte della famiglia, no? E non lo facevo cambiare, non so perché. Poi mi sa che ho fatto un aggiornamento, se non mi ricordo, vabbè. Non l'ho fatto cambiare sul nome. Adesso ne ho due, Lucchetto, con le fiamme davanti, Lucchetto 74. E poi c'ho là, poi c'è tu. E perché te l'hai messo un'altra account, per caricare di più? Puoi fare una cosa, con due account puoi caricare più punti, capito? E tutta una cosa, molta gente li usa per fare questi trucchi qua, per avere più punti, capito? Giochi con uno e giochi con l'altro, sembrano due persone, invece è sempre una, capito? E niente, però vabbè, tu cerchi di insegnare, ma nella tua famiglia sono tutti di Sassari. Stamattina c'è questa Imma di Sassari, come Silvia, e poi gli altri non lo so. Sì, ma l'ho vista che è entrata quando c'è lui ancora, l'ho anche salutata, però me ne sono andato subito perché dovevo preparare il pranzo, che c'avevo gente a casa, e quindi dovevo sistemare un po' le gabbie, eccetera, dovevo fare un po' di roba, quindi l'ho mollato subito, se no ci sarei restato. Va. Vabbè. Provo a cantare una canzone di sassese, ma non mi devo organizzare meglio. Cioè, devo avere un microfono capire come funziona. Ora! Come posso comprare un paio di cuffie da un sacco di soldi? Cioè, io un paio di cuffie lo comprate col coso. Però essendo troppo corto il microfono, cioè ci devo proprio parlare sopra. Insomma non riesco, non mi esce la voce bella. Allora, le cuffie non so quali sono quelle belle. Quelle che si usano per fare i giochi su internet, sono anche da Media World, io ce le avevo, non so cosa andavano bene, erano morbide, manco le sentivi, erano leggere, grosse, però leggere, e si sentiva ben bene, e cantavi, era una meraviglia come si sentiva. E poi, vabbè, ci sono praticamente, visto che ci sono, quando tu canti, Non lo mettono prima, quindi non puoi regolarlo prima, lo devi regolare mentre stai per cantare. Quando ci mettono la canzone che ci scrivono, inizia a cantare, lì ci sono tre aerei vicino alla telecamera, eccetera. Tu clicchi lì e devi mettere la voce a 90 e a 70 la musica e sei regolato perfettamente. Ah, io Anto, voi siete Capo Buruddu? Cosa? Antonio, sapevo che siete testa anche lui. Ah, Antonio, in piazza cantava, non si vuole lanciare. Si parla più, gatto. Io ci ho preso il gusto, ma lo facevi prima di me tu, Luca. Tu lo facevi prima di me, io mi ricordo che una volta sono entrato con mia figlia e avevamo fatto una canzone, Vivo per lei, una cosa del genere insieme. Te lo ricordo? Sbattacca. Esatto, sì. E avevamo fatto una canzone. Non è se porta a fare, ma... E stavo per entrare lì, oppure non lo so, ho già abbigliato, non ci sono più entrato. Dopo che mi sono messo con Elena ci aveva questa passione e me l'ha trasmessa a me, mi ha fatto vedere l'app dove cantava e io mi sono messo anche io a cantare. E vabbè, comunque, se ti trovi bene, la Silvia è col capo, non è il capo, là. Sì, è col capo, come me. È come me, è il vice capo, diciamo, là. Co-cap si chiama, co-capitano, il capitano è uno, qui c'è co-capitano che è il vice, là. È bello uno, per esempio. È perso, come al solito. C'è perso un capa. La mata di Nivaria, che sto facendo andare un attimino il bambino. Vediamo se sarà andata bene la bambola. Scusate, c'è la tipica per aprire qualcosa da bere. Ma sei andato di notte a vedere il collage? No, ero a karaoke, sono amico. Ho fatto prima il pranzo, la doccia da Cristian. Poi sono venuto a casa, perché ho visto ancora da lavoro. Ho cambiato e sono salito su a coso, a Concordia. No, tu sei andato? Sì, ho visto tutto il concerto dall'inizio. Ce n'era gente? Era pieno. Io ho anche cantato, me l'ho cantato in tutte le canzoni. Ma all'aperto era? Sì, all'aperto, dove c'è l'oratorio della Tenoce lì, letto. Ma è il capo? È organizzato, non quello maschile, ma quello femminile. L'oratorio femminile, quello della Chiesa Vecchia, diciamo. E lì praticamente l'ha organizzato le frati sempre. Capito. Ma non sono andato. E infatti ci ha fatto fare la preghiera prima di iniziare il concerto, si è presentata, io sono padre, non mi ricordo come si chiama, e sono contento che siete in tanti, che siete venuti a vedere questo bel complesso che ci piace anche a noi, abbiamo pensato di chiamare a loro perché sono bravi. E niente, poi c'è stato un buon divertimento, ci ha fatto fare l'Ave Maria a tutti quanti e poi ci ha dato la benedizione a tutte le famiglie e poi praticamente è iniziato il concerto. Quanti sono del gruppo? Sono, allora, batterista e pianista in quattro. Aspetta 2 secondi, riprendi alto un attimino. Non lo so se il batterista è sempre lo stesso, il batterista è che è un po' mi... perché è giovane, ma bravissimo il batterista, molto bravo. Già, non piani di coppa lì, niente che ha studiato, capito? Niente che sta studiando. Affanculo. Ma sempre vestiti strani sono, sì? Cosa? Sempre vestiti strani sono. No, lui era vestito di bianco, e gli altri normali, no, non erano strani. No, no, che sono i cugini di campagna, è vero, che si mettono a vedere il capo della donna. Ma sono fissato che erano loro. Ma sono uscito già. No, stasera no, di notte. Poi, pure stamattina, ho portato il cane, vabbè, poi c'era gente a pranzo, come ti ho detto. Non potevo uscire, poi tra lavare i piatti, pulire, fare... mi sono drumito dopo pranzo. Ah, qua, con amici eri ieri? Sì, sì, con amici. Ho detto che ti avventuri anche da solo. Cosa? Ho detto che tu ti avventuri anche da solo. Ah, sì, sì, sì, se voglio vedere qualcosa, se magari ho amici, prendo io un amico che lavora in ospedale, a volte c'ha i turni, che non può venire, io se mi piace complesso vado lo stesso, poi già trovo gente che conosco sempre, non è che solo non ci sto mai, poi quando vai ai concerti non puoi abitare nulla, quindi è come se fossi solo lui. Vabbè. Immagino, vabbè. Allora organizziamo qualche giorno, ma cosa ne dite? Il karaoke? Anche su che non se ne andremo la chiesa sciagurata in più a bancare da qualche parte. Io volevo andare a mangiare la farina da Benito. Io me la giubata in casa la farina. A me piace, piace quella di Benito, quella con le verdure, buona rita. Luca, sto cercando i filmati per mandare. Sì, e comunque, come si dice, certo, voglio andare a divertirmi una sera, perché sono sempre lampadino che gli altri, cioè, voglio proprio mettermi d'accordo e andare a divertirmi. Perché? Posso non averci gnogno, mi piace a me. Cosa? Che voglio un posto dove c'è gnogno, hai compreso che l'ha già detto. Qui è fa male gnogno. Gianni, a così. Sì, ho trovato Luca su WhatsApp. Cappa. Quante sono lui al mondo? Ma buon matto. Grazie su a Gigi. Me, papà. Adesso l'ho spinto al massimo, com'è? Distorge, adesso lo sto spingendo al massimo quasi. Luca, distorge, Gianni, distorge. No, non distorge. Adesso sto spingendo al massimo. Come ti segnala? A bomba a fondo, secondo fondo proprio. Ecco, sì, sì, siamo alle passi però, è normale che sia così, dai. Certo, adesso passo, non volevo vedere se stava ancora andando. Cazzo si sta andando questa cosa, la mazza di Nivaria mi ha gettata di fatto, Uglia, 190 quasi. La gente che chiudemmo va. Ma è il batterista? L'ho visto, l'ho visto. Però mi sembra l'unico che ha cambiato, che è troppo giovane, no, non me lo ricordo quello però. Chissà quanto gli è costato a fare la veloce. C'era qualche paninaro anche già. No, c'era un capannone, non so cosa, stavano vendendo dischi, CD, eccetera, eccetera. Le magliette, le sciarpe di chi colla. Capannone, non sente. E c'erano momenti di viaggio, dovevano lasciare uno stand, dai. Ma era parlando di casa tipo quella dei muratori, dai. Era cosa, uno stand dove vendono i panini. Adesso è passato, C'era la posta sedersi, mi sono seduto lì, era a fianco al complesso, quindi c'era una specie di muretto col gradino grande. E mi sono messo sul gradino, ho fatto i filmati al gradino e si vedeva proprio un bel. Beh, già ti basta, ma tu sei la giovanata. C'è un nuovo comitato di quartiere, c'è. Ma il comitato l'ha organizzato, non i frati. Ma c'è un comitato di quartiere l'hanno organizzato. Vabbè, io pensavo che fosse i frati che l'avevano organizzato. Perché la festa della Madonna, eccetera, eccetera, per quello che... Non ne abbiamo frati, no, per un prezzi, un prezzi che sia, questo. E perché i salesiani non sono frati? Anto, i salesiani non sono frati. Aspetta che sto dicendo una cosa a mia cognata, che mo... Cazzo, come ti sei organizzato per domani con un gatto, chi sei fuori di capo, Cioè, domani io lavoro. Sto mamma mi ha fatto a girare i coglioni, mi... Aspetta un attimo che la chiamo. Oh Luca, Luca, Luca, che non sapeva far l'amore. Antoine, e beh, muoviti, Luca, Luca, Giada, ci sei? Ehi, io ci sono, ma stavo andando perché non rispondere su. Già, poi non era buona, abbassa il suo microfono che era buona. Cosa tu? Serve il microfono a pompa. Boh, Luca non si è perso, non so che fine abbia fatto. No, io sono su una mia cognata che c'è un problema. Cioè, stavo risolvendo. Ho capito. Perché ne ti ha capito? Già, no, già ce l'abbiamo risolto, io domani devo lavorare. Ma qui è su gran piccolo. Ma quella che hai provato tu cos'era? Diesel o a benzina? Diesel era. Praticamente questo amico mio aveva il vigneto giù e sopra si doveva salire in questa salita per portare su le casse dell'uva quando vendevamo, li mettevamo sulla motocarrozzella e sul trattore e le portavamo su le casse. No, c'era la gente che le raccoglieva, poi le caricavamo sulle moto, sulla moto e sul trattore, un trattorino piccolo col carrello. Di cazzo a quintale, che? 7 ettari ne ha di più. All'anno, a quintale brutto di questa roba. Poi che ti dà il vino, papà, mamma mia. Allora vai il suo drenino, va. Di quelli che ci può sedere lei. Ma come sa sedere? Perché sa come si può posare sopra. Di quei treni di colline. Ah, e cosa mi sai dopo Marì? Se questo gli piace ci vuole sedere. No, via. Vabbè. Quindi domani tutto il giorno. Sì, domani sì. E vabbè, ci vuole giovani. Andare perché te non vuole scendere giù, dai. Ci sentiamo, buona serata, ciao anche a Luca se mi sta ascoltando. Ma anche a te, mi lo senti a te. E qui c'è un ufficio trenino, ma c'ha 3 cicli, diciamo, mi ha dopo il biglia uno si muove in pinna, ma è una sacco, ma fa ridere, fa. E adesso adesso comincia a essere simpatici. Sì. Cazzo che tu l'ha parcheggiato le macchine, usciuga, tutto bene. Ah, come sei, da un mondo, ma tra tre cicli, uno, quattro cicli, uno di quelli altri, l'altro mi piglia uno, ma poi quando ci dai l'altro, ma una scena, la mamma che si è pigiato un sobranino, cessa. A chi assomiglia tu? Ti lascio che vado, che questo qui si sta rompendo le scatole con le scene, là. Ci sentiamo anche a ragione, dai, già tanto. Ciao! Ciao, ciao.